Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Com'è cambiata la mappa del tifo in Italia? Ed è vero che, anziché stemperarsi, la passione per la squadra del cuore diventa sempre più ultra? Sono due delle domande, ma ce ne sono altre, non meno interessanti, cui ha risposto un'indagine curata da Demos per conto di Repubblica negli scorsi mesi. Ne abbiamo parlato in dettaglio con il professor Ilvo Diamanti, che questa indagine ha curato con la collaborazione di Paola Barretta e di Fabio Bordignon, di Demos per l'appunto. Ne è uscita una puntata di grande interesse, un affresco, ma in chiaroscuro, di quello che Repubblica ha battezzato come un popolo di tifosi. Ma un popolo di tifosi tendente, ai noi, a diventare effettivamente sempre più ultra. Da una parte quindi c'è il tifo per la squadra del cuore e qui, come scopriremo grazie al professor Diamanti e ai suoi collaboratori, al comando c'è sempre la Juventus, sia pure non più con i numeri di qualche anno fa, ma sempre largamente al comando. Mentre nella classifica del tifo contro, e qui anche qui lo riscopriremo tra poco, c'è stato il sorpasso dell'Inter proprio ai cosiddetti danni, visto che si parla di tifo contro, della Juventus. Professore, eccoci. Siamo qua. Dunque, intanto bentornato nei paraggi del Sole 24 Ore, dove lei è stato editorialista per parecchi anni. Sì, fino al 2001, da metà anni 90 fino al 2001. I dettagli li esamineremo più tardi con Fabio Bordignon, che ha collaborato a questa indagine. È responsabile metodologico. Ecco, benissimo. Quindi lì andremo poi più sul dettaglio dei numeri. Nella sua introduzione, insomma nella sua presentazione di questa inchiesta, le cose che invece risultano più significative a parer mio sono quelle che lei ha sottolineato, e cioè come sia aumentata la percentuale di tifo per una squadra rispetto all'interesse per quella squadra. Quindi stiamo diventando sempre di più, lei ha titolato e ha suggerito di titolare, un paese di ultra. Sì, un paese in curva. In curva. Sta in curva, tenendo conto che appunto i tifosi che rilevano queste indagini non sono solo, anzi sono in minima parte quelli che stanno negli stadi. Sì. E sono invece la gran parte del tifo che è fuori dagli stadi, cioè il 52% degli italiani che si dicono di fatto tifosi, che tengono come si dice per una squadra. Sì. Questi peraltro 2 su 10 di questi e quindi di fatto più del 10% degli italiani si dicono militanti, cioè ultra. Sì, un popolo che sta sostituendo progressivamente ad altre passioni questa, anche per la debolezza delle altre passioni, passioni, ecco. L'identità nazionale, figurarsi, l'identità politica, non si sa più che cos'è, tant'è vero che poi io ricordo tempo fa ho fatto una rilevazione sulle identità, quindi sulle appartenenze, e sì, tra coloro che hanno meno di 18 anni il tifo calcistico supera come intensità l'appartenenza religiosa, non parliamo di quella politica o quella locale, cioè sono prima tifosi e poi possiamo discuterne. Questo cosa vuol dire? Che, se non capisco male, che noi ai giovani stiamo dando, come società civile intendo, stiamo dando così poco che quel che gli rimane è attaccarsi a una bandiera? Direi che tutti hanno bisogno, bandiera è una parola forte, vero? Sì, bandiera, etichette. No, bandiera uno... abbiamo bisogno di qualcosa in cui riconoscerti, tutti. Sì. E noi, cioè, la nostra identità, quando parliamo di identità la possiamo, come dire, caricare di significato, però anche dal punto di vista descrittivo è ciò che noi siamo, cioè noi abbiamo una carta d'identità che ci, come dire, descrive attraverso la nostra faccia, il cognome, cioè la famiglia, sì, dove abitiamo, dove siamo nati, la professione che facciamo. Ebbene, tutte queste cose, come dire, hanno un noi che è sempre di più la squadra di calcio. Io ricordo, è una battuta, perché poi mio figlio è cresciuto, però il più giovane dei miei figli, un giorno rispose a un mio collega che venne a trovarci, gli chiese: ma tu sei come tuo fratello? Intendeva il fratello, era molto militante politicamente. Sì. E lui lo guardò e gli rispose: no, mio mio fratello è comunista, io sono del Chievo, questa insomma mi pare davvero la definizione di due identità. Ora suo fratello è meno comunista e lui non è solo del Chievo oggi che è cresciuto, però è vero, cioè noi possiamo dire anzitutto siamo tra virgolette tifosi e poi ne discutiamo, e probabilmente l'atteggiamento del tifo noi lo riscontriamo anche in molti altri ambiti sociali, cioè non solo la politica ma le appartenenze, cioè io non so come definire altrimenti oggi il tifo territoriale a cui assistiamo, insomma, la padanità, insomma, il localismo sfrenato, cioè ripeto, il calcio ci esprime bene anche fuori dallo stadio come un popolo di tifosi. Alcuni mi hanno peraltro rimproverato i dati di un'indagine che è un'indagine, cioè noi la facciamo e quello che esce, rimpallandosi la colpa di essere tra virgolette più ultra di destra degli altri, e mi hanno mandato le foto delle curve ciascuno dell'altra squadra dove campeggiano i simboli nazi, fascisti, a dir poco, cioè, quella è un'altra cosa, cioè le curve sono divenute una specie di campo di battaglia nel quale si esibiscono e trovano visibilità gruppi estremisti, quasi tutte le curve, non vuol dire che le curve siano fatte solo da estremisti, ma che gli estremisti hanno, come dire, scelto quelli come luoghi di visibilità, ed è significativo anche questo, soprattutto quelli nazifascisti, diciamolo pure, soprattutto, però quella è un'altra cosa. Quelli non sono neanche, probabilmente non sono neanche tifosi, quello è un luogo scelto come altri per fare militanza, e non è un caso dove il tifo politico diventa tifo sportivo, anzi più che tifo politico, dove l'estremismo politico trova nel tifo sportivo un'occasione di esibirsi. Le donne hanno cambiato atteggiamento, scrive lei, oggi rispetto a una precedente indagine che lei prende come riferimento, lei la prende anche, non so, per esempio per la Juventus, per dire, con tutte le disavventure che ha avuto, oggi 29 tifosi su 100 si dichiarano tuttora juventini, mi pare che nel 2005 fossero 33 o 34, se non ricordo male. Cosa del genere. Su 100, però, insomma, lo zocco, altro che zoccolo, cioè ha tenuto una maggioranza larghissima. Le donne che allora, in questa precedente indagine, si dichiaravano, mi pare, moderatamente tifose, oggi 4 su 10 sono tifose a loro volta. Sì, dunque, questione. Noi le vediamo anche allo stadio, e poi soprattutto io stesso mi accorgo di essere circondato nel momento in cui discuto con amici e persone che conosco da interlocutori che intervengono direttamente in materia di calcio e non sono più soltanto tra virgolette uomini, sono anche le donne. Certo. E questo è un po' generale, cioè al di là del giudizio che possiamo dare, oggi noi siamo... cioè la trasformazione sociale ha fatto sì che i gusti e gli orientamenti di genere si stiano allineando, soprattutto tanto più le persone sono giovani, tanto più hanno un uguale livello di istruzione, tanto più sono orientate in modo simile, per cui anzi il vero problema delle donne che sono escluse dai luoghi di responsabilità non hanno pari opportunità, sotto questo profilo l'Italia è dopo le isole Tonga, cioè non le trovi in Parlamento, non le trovi tra i manager, se non in piccolissima misura, però i vici li hanno presi tutti, non si mettiamoli così, quelli degli uomini, compreso quello di cui io sono anche un portatore neanche tanto sano del tifo, quindi di fatto sì, è un segno del cambiamento della società. È vero che però per ora sono ancora maggioritarie tra i tifosi tiepidi, mentre i militanti no, quelli è già qualcosa. Sono sì, per fortuna, non so per quanto. Prima di tornare in compagnia del professor Ivo Diamanti è tempo di sentire come va su strade e autostrade. Torniamo al tifo, torniamo a questa mappa redatta da Demos, società demoscopica, vi ricordo, fondata per l'appunto dall'interlocutore di oggi, Ivo Diamanti. I tifosi di calcio sono dichiarati oltre il 50%, cioè il 52%, che i militanti raggiungono il 22%, che i caldi rappresentano il 16%, i tiepidi soltanto il 13%. Però sa, professore, che La cosa che alla fine mi stupisce di più è che in un paese come il nostro chi si dichiara non tifoso di calcio raggiunga il 47,8%. Ma no. No, nel senso che uno su due, cioè dirsi tifoso per quanto tiepido non è una cosa abbastanza impegnativa. Tifare non è interessarsi, quando tu ti occupi, uno può dire segui, che so io, la politica, vabbè, la posso seguire, tu segui il cinema, certo, leggi i libri, magari sono pochi che lo fanno, però lo fanno, ma hai un autore preferito, hai un regista preferito, è più impegnativo, no? Certo. Quando uno segue il calcio è tifoso, è diverso, cioè è quasi una doppia appartenenza. In questo caso non puoi non occuparti di calcio senza tenere, perché? E questo è significativo, questo è che oggi il calcio, anche per ragioni anche storiche, è un modo di schierarsi, è un modo di essere. Dal suo punto di vista è interessante il fatto, ad esempio, la Juventus. Perché la Juventus? Perché la Juventus è l'unica squadra che non ha una città vera, sì, e propria. Sì, non ha un riferimento Torino geografico, sì, ma Torino è più almeno è sempre stata più granata. Torino di Biancora. Torino è granata, è il Toro, sì, però il suo stadio è a Torino, però il suo tifo, se guardiamo il nord-est, è il primo un po' in tutti i territori. Perché la squadra di un paese di emigranti, dove quelli che dal sud sono venuti a nord si sono oppure dal nord est al nord ovest, come i miei genitori, diventano juventini per vincere, mettiamola così. Il calcio è un modo di appartenere, avere un riconoscimento e una promozione sociale. Si tifa per una squadra per vincere, e non è un caso che l'Inter supera il Milan negli ultimi anni, cioè certo, i tifosi tiepidi si allargano più nell'Inter che vince che nel Milan che non vince. Poi lì probabilmente conta anche l'identificazione, visto che il calcio si è molto politicizzato dal punto di vista, sì, pubblico, e allora il Milan ha un'identità molto forte, molto personalizzata e quindi anche molto politicizzata. È evidente che in qualche misura divenga un'appartenenza più esclusiva, è quasi più di nicchia, insomma. Molto interessante la geografia del tifo che vedo poi riassunta. Nord-ovest, prima Juventus col 32%, secondo l'Inter col 27%, molto vicina. Nord-est, davanti l'Inter 25%, Juve 23%. Centro, Juventus 27%, Roma 23%. Sud e isole, Juventus 31% e Napoli 21%. Io chiuderei, professore, con lei, per poi scendere nel dettaglio di qualche numero con Bordignon. Chiuderei con, aspettando anche nel frattempo i commenti di voi che ci state ascoltando, con il tifo contro, che anche questo invece, a differenza del precedente, mi pare di aver letto, anzi ho letto di sicuro, non credo di aver equivocato, che ha proprio cambiato casacca rispetto alle rilevazioni del vostro precedente sondaggio, la ricerca di prima. Certo, oggi la squadra tra virgolette più odiata dagli italiani è diventata l'Inter, 16%, e ha superato la Juventus, che in 5 anni è passata dal 24% al 13%. Ma qua siamo nella logica che avevamo indicato in precedenza: se tu sei tifoso, se tu appartieni, te la prendi anzitutto con chi è più forte. Cioè io credo, sì, che gli juventini, parlo anche di me, non siano felici di essere, come dire, meno odiati degli interisti. Così ha anche dichiarato il colore, eh? No, ma io l'ho sempre dichiarato. Il bicolore, ma no, ma scherzo. Sì, appunto, e anzi, è una delle ragioni per cui non mi piace il tifo oggi. Il tifo è diventato troppo spesso, le frange razziste del tifo. Cioè io quando mi incavolo, quando vedo fischiare nello stadio della Juve i tifosi d'altro colore, cioè io veramente trovo, non solo perché la Juve è bianca e nera ed è nata come una squadra di per cui tifano gli immigrati, però tornando a cose serie, l'Inter evidentemente oggi è la più forte per ora, in quanto tale vince da tanto tempo, sì, e come tale si attira addosso tutte le ostilità altrui. Allo stesso tempo però è evidente, il 16% dell'Inter oggi, cioè di tifosi contro, non è lo stesso della Juventus di 5 anni fa, che è il 24%. Sì, sì. È perché lì dipende dalla base di tifosi che hai, cioè più ampia è la base tua di tifosi, più facile è avere antitifosi. Allora, come dire, in attesa che la Juve divenga, se non quella di un tempo, più forte, oggi ci si concentra sull'Inter, si gufa contro, si tira contro, però appunto sono di meno. Non sono una squadra nazionale ancora. Non ancora. Professore, io la ringrazio molto per la sua partecipazione. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. È una trasmissione che quando viaggio in quello l'ascolto, quindi sono contento di esserci passato. Il ringraziamento diventa doppio. Grazie. Ricorderete che all'inizio di questo intervento il professor Diamanti ci aveva fatto il nome di Fabio Bordignon come responsabile metodologico che ha curato l'indagine in particolare sulla mappa del tifo e che sempre in quella puntata del 12 ottobre ci fornì tutti i dettagli dello studio da loro curato. Buongiorno Bordignon. Buongiorno a voi. Buongiorno, perché così lei che ha curato questa indagine in equipe col professor Diamanti e con la Demos ci aiuta a capire alcuni parametri. Innanzitutto, qui è quello del tifo contro che sta intrigando di più e immagino che lei se l'aspettasse ampiamente. La prima domanda, però, la prima curiosità che avrei è come è stata condotta l'indagine, su che campione e con quali parametri, insomma. Sì, diamo qualche dettaglio proprio per capire di cosa stiamo parlando. Sì. Si tratta di un sondaggio realizzato nei primi giorni di settembre, precisamente tra il 7 e il 10 settembre 2010, dalla Demos, su un campione di 1.000 persone, 1.018 per la precisione, sì, rappresentativo della popolazione italiana in base ai principali caratteri sociodemografici e la distribuzione territoriale, maggiorenne, quindi superiore ai 18 anni. Sì. Quindi i dati si riferiscono a questo segmento della popolazione. E parto proprio dalle curiosità che chiamavano in causa i vostri ascoltatori. Sì. Allora, il dato sul tifo contro non mi stupisce che solleciti, diciamo, la curiosità e l'interesse, proprio perché si tratta di un fenomeno rilevante, come avete già ampiamente sottolineato, e appunto coinvolge circa 4 tifosi su 10 su appunto quella metà della popolazione che dice di avere una squadra di calcio preferita che si dichiara per l'appunto tifosa. E da questo punto di vista abbiamo rilevato come il grosso delle antipatie corrano sull'asse Torino-Milano, sì, sponda nerazzurra, sì, e come di fatto i rapporti tra Inter e Juventus per quanto riguarda il primato del tifo contro si siano invertiti dal 2005-2006 in poi, cioè in quel passaggio, diciamo, tra prima e seconda Repubblica del calcio, che appunto è stato caratterizzato dai processi di calciopoli, certo, dal ritiro degli scudetti e quant'altro. Sì, mi sembra anche interessante notare che tutte queste variazioni, tutti questi paragoni tra numeri che abbiamo fatto sino ad ora, cominciando da 40 minuti fa col professor Diamanti, sono in rapporto alla vostra precedente indagine che risale, mi pare, al 2005. Sì, esattamente, abbiamo scelto questo riferimento temporale proprio per avere, diciamo, il confronto tra i due regimi, di fatto prima della rivoluzione e dopo la rivoluzione. Il calcio della prima Repubblica e poi il calcio della seconda, in teoria. Sì, possiamo fare assolutamente questo parallelo, diciamo, richiamandoci la dimensione politica che appunto ritorna più volte nello scorrere i nostri dati. La cosa interessante è che se sia in campo politico sia in campo sportivo, calcistico, in questo caso abbiamo avuto questo tipo di trasformazione segnato da un momento di crisi, se per la politica questo ha determinato un allontanamento dei cittadini, sì, appunto, sì, dalla politica stessa e dai partiti, nel calcio abbiamo avuto il fenomeno opposto, semmai, dove appunto abbiamo assistito a una fideizzazione. No, no, mi scusi. La crescita della passione. Certo, una maggior fidelizzazione, no? Che sia per i propri colori sociali, chiamiamoli così, sia anche di antipatia, e non voglio usare quell'altra parola di quattro lettere perché mi dà un po' fastidio, obbligata al calcio, nei confronti degli altri, dell'avversario, insomma. Sì, del resto sa, noi abbiamo sottolineato come qualsiasi tipo di identità abbia una faccia positiva, tra virgolette, e una faccia che si compone in negativo, questo senza voler dare dei giudizi di valore, nel senso che si alimenta dal contrasto con l'avversario, non dico nemico, anche se in alcuni casi per l'appunto si configura in questo senso, e proprio per questo motivo appunto fenomeni così rilevanti come quelli collegati ai processi di Calciopoli hanno alimentato il tifo e alimentato il tasso di antagonismo di alcune tifoserie, su tutte quella della Juventus, che già in precedenza era quella più consistente dal punto di vista numerico, e che proprio in questo passaggio ha aumentato il proprio tasso di militanza all'interno della tifoseria, ma anche il proprio grado di antagonismo nei confronti degli avversari. Professore, grazie. Grazie a voi. Secondo intervallo di oggi, mercati. La seconda parte di questa puntata del 28 dicembre è dedicata al vero e proprio show che Giovanni Galeone ha regalato ai nostri microfoni, e tra l'altro in due fasi, in due tranche. La prima è il 9 settembre. Tutto era nato da un'intervista a Tutto Sport in cui Galeone aveva suggerito al suo allievo prediletto Massimiliano Allegri, il segreto per far volare il Milan a quattro punte. Allora si parlava di questa grande suggestione, cioè Ibrahimovic come pivot, si diceva una volta nel basket, e come totem per la sua personalità, e intorno a lui Robinho, Pato e Ronaldinho, con l'ovvia conseguenza di non poter contemplare dei mediani, o meglio, di doverne contemplare un paio, ma davvero di rottura, come avrebbe detto Paron Rocco a suo tempo, e quindi con l'esclusione di Andrea Pirlo. Era una tesi da un lato paradossale, ma dall'altra che era frutto del ragionamento partente proprio dall'indispensabilità di quei quattro attaccanti. Sentiamo. Io ho letto nei giorni scorsi un'intervista di Alberto Pastorella, per l'appunto, a Giovanni Galeone. Ora, se c'è un tecnico mai banale, questo è certamente lui, e anche in questa occasione mi pare lo abbia confermato, come tra poco scoprirete. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, partiamo dal fatto che Allegri è cresciuto con te, ti riconosce come padre putativo calcistico, così come tu l'hai sempre riconosciuto come allievo tra i prediletti, se non il prediletto. Ora, nei giorni scorsi, a questa domanda di Alberto Pastorella su come tu faresti giocare il Milan, hai risposto che... Per la grande felicità di Pirlo non farei giocare Pirlo. Ecco, tanto per non essere banali, no? Una volta di più. No, il discorso è questo: per far giocare i quattro davanti, cioè tre più Ibrahimovic, Robinho, Pato e Ronaldinho, è evidente che i due centrocampisti devono essere due centrocampisti più di contenimento che di regia. Più di fatica, certo. E questo in tutte le squadre, dal Real Madrid quando giocava con Becca, Raul e Zidane davanti a Ronaldo, un po' tutti giocano così, non c'è niente da fare. Pirlo lo faccio giocare tutta la vita se gioco con tre attaccanti, tre centrocampisti, tutta la vita se gioco con tre centrocampisti, una mezza punta e due attaccanti. Non è il massimo della vita giocare con quattro centrocampisti, perché secondo me è un po' limitato nella sua cosa, però con tre più uno non Pirlo è il meno adatto, insomma, più Ambrosini Seedorf o non so, Flamini Seedorf, Flamini Ambrosini, Gattuso Boateng magari, ecco. Cioè qualcuno, cioè, gente di fatica, senza mancargli rispetto, ma insomma gente di fatica, perché gente a supporto del talento davanti. Ma i quattro davanti, leggevo, come li schiereresti? Perché anche quello mi ha colpito. Dove sta Pato, per capirci? Robinho, Pato centrale e Ronaldinho a sinistra. Quindi da destra a sinistra Robinho, Pato e... Ronaldinho. E Ibrahimovic lì davanti. Sì, le vacanze di Natale, quei due di centrocampo le fanno il pomone d'acciaio, immagino. Cosa di Natale, non so se arrivano. Per fare questo tipo di gioco devi fare solamente una cosa, devi fare immediatamente come si sbaglia la giocata, non riesce da davanti, il numero, il colpo,

Di nuovo grazie a Giovanni Galeone, un appuntamento a presto e uno per noi già fissato per domani con il professor Carlo Vittori. Buon pomeriggio da parte mia, da parte di Roberto Scaltritti in regia, di Franco Piantanida in redazione Giornale Radio.